vedi una televisione, si è apparato, si è sudato. Ma non è vero che di riserva non siamo sentiti per telefono. Non siamo sentiti, non so. Ma che voi non la pittate con nulla, nunca avrò più. Io sto pensando che sia Teo, Giulio Dollaro, Pifidi, Sandro dai Vostodurre e Gianluca dai Vostodurre. E infatti voi mi hanno chiamato, sono volato, non dovevo applicare un bel niente. Ma no, non mi sa che mi stai in mano e mi chiama la mamma. E non ti ricordi? bussano. No, non ti ricordare, non ti ricordare di chi è. E prima gli abbinati ne ti pure, come soppure che sono... che sono nei continenti, che non hanno trovato più, se cagli. Il primo inizio di abbinaria da... come io che si è migrato, chi ha abbandonato tutto, compreso. Cazzo, dove lei ha subito, cazzo, io già. e sono tutto travagliato, disoccupazione l'ho pindata. Da Italia sono passati nemmeno in Svizzera, compreso. Da Italia sono passati tutti in Svizzera quasi, tutti in Svizzera. Sì, a te lo dico, sana. Però di me scienziata non mi risetta io. Se io non mi risetta, ma da più tale se la reato come si chiedono ormai la gente che non poteva abitare magari velocia e roba caglie hanno fatto il cazzo, poi mi hanno fatto tenere tutto, non mi che paga a fuire, mi piace sapponare, non mi canto. Non mi cantare a te, ho appunato a me, mi deve chiamare, pagate su conto che non mi ha dato manco litri in mano, mi cazzo, me l'ha mandata raccomandata a un domo. Ma so che io sono bascio. E se sono mosso domani si sono, se sono mosso già, compreso quasi. In vita viene fatto sintonaco a chi mi mezza franco, a chi mi euro su metro, cazzo, compreso il materiale, cazzo, aio, cazzo addirittura una fattura finanziaria per pagare l'operaio, cazzo. Cazzo, non pesci, Dio, ma... Già. Fai di su conto, cazzo, che una pedana di materiale, cazzo, costa 300 euro, so, e una pedana di latana, la chiedi paga 70 metri, so, 70 metri, non te lo paghi, te. Se te ne paga chi manca, cazzo, dipende che vieni tra me, vieni tra pago, cazzo. Mentre c'è una miglia di chi manca metro, cazzo. Compreso vado. È sicuro che aumenta la carta a casa, non pesci nulla, a chi in vero, non pesci nulla, chi non ti paga manco sappa di buffa già. Già, i 9 puro finicai, i 9 puro finicai, a chi in vero, cazzo. Ecco sono vicino tutto male, cazzo. E cosa che sono improvvisato sento un chilo, cazzo. Sono tutta su famine come, che non sono tra chi sa pinto la trattatura, chi sa pinto una cosa, chi sa pinto l'altra. E sono tutto frimoso. Ma come perciò nulla, no che cazzo addirittura non potete fare una macchina d'uomo tua, chi si ti becca la cazzo ti pone in contravenzione, cazzo, non sai chi ti ha passato cazzo, con un amico mio ricchi cazzo, quindi fa tante cose, in domo sua, in trove domo, una canavo è andato e poi con un amico suo a giovare, cazzo, che le più mi aspetta l'altro di lavoro, cazzo, gli ha posto, hai su 3 mesi che mi chiedo 6 euro, cazzo, hai avuto 2 euro di contravenzione. Cazzo, un mese passato a me mi piace una passata a Fager. Ma che vaga mille, che quando non tiene tanto Fager, no, che non è a mia, che non mi dà Fager. Non è che la butta non è a chi, poi l'invito a toccare l'impresa a Frimmas. E a mio come ti mi viene a tenere su conto, poi in casa e ti aspettato di lavoro addosso. E in cura napponato. A peo che la pago della sua contrapensione a fare a cassa a te puro. Ma infatti a Issa di Biuso a me magari più pago, però si contravenzionano, non può fare che nulla deve essere iscritto, potrei pagliare deve essere iscritto. E no, che è tanto la lascio qua, no. E non l'ha fatto, manca impresa l'ha dato, lui tu ha. e io ti sempre rubizzo appresso, no, che paga, non te l'ha fatto, non te l'ha fatto che io non può pagare contro la pensione per ognuno, né Deo e né mamma tua. Qualche tribaglio, qualche domo in campagna, si posa già tre figli a Rovagre, ma in Trueggia, oh, io no, oh, tu come ti dice ne piazza le capazzette su in casa per spostarsi al lavoro. Carabinieri di pensione, compreso, e intubano di brutto che ti pagano lucido lucido, ma che ne si conta a me, ma però non fa che ti cazzai il tesserino, cazzo, ma la porto che mi chiedo se da contravenzione. Non è una regione, poi non lo mettiamo nella borsa, vai alla borsa e prendilo, a casa non sa poi c'è più vidi. E la mia, mi l'hai dimenticato in domo. Cazzo, 500 euro me la pioppa. Cazzo, è solo. Se si becca, cazzo tesserino, che non si becca che era piccato, in pettorra, solo, 500 euro. 700 euro, se ci sono, c'è la ciappola, la pagliente, che non gioca, potte tanti fortunistico. Comenta già. E becca lavoro, prendo giocantieri, sì, non gioca, potte tanti fortunisti, se Castellino ha piccato, si è contravenzionato, Però ti curò canino dai conca. Senza botte, senza portoni della chiappa, in bottina, sa, travagliente, 700 euro, non ti credo poco, manco Gesù Cristo. Ma te non dico, cazzo, come posso tesserino, il cazzo influisso tesserino, come, lui era piccato, cazzo, noi, se non è brutto, ma poi c'è il sbaglio che mi appartiene, è brutto, quindi che, però lo deve giù, è fatto, questa cosa, ma entro la buscia, magari, però lì senza cantieri. Senza cantiere dentro la macchina, ho preso, ero reggio via, avevo sembrato la buscia e sono andato, l'hai giocato, mi chiedo per dimenticato, e ho andato a Pedro Cristo, 500 euro. Attenzione, io Maria. Pare che non si sia decidato ancora. Mette 500 euro, ho provato, che io ho fatto 150 km, ho detto, per venire qua a lavorare, ho detto, non influisce niente, ho detto, per il tesserino non è avvenuto, ho detto, cosa succede? Ma sono assicurato, tutto in regola, non è importante, neanche, lo deve portare appresso. Ci sono disimpresa subito, c'è un collega mio, subito tornato la sabuccia, si era alleato, si era piccato in pettoro, non è successo nulla. Figurati su qua che reso conto, guarda, noi mi passiamo sopra un ponte, ma che mai il ponte l'ha che influisce a voi, quando no, perché si sta passando sopra? Cazzo, può passare su ponte a contravenzionare la sua impresa. Ma che paraculo è, se che ha mezzo è bagassa. Poi la napolitano Maria la ciao. E beccaggia, io non gioco, siamo, deve essere, se c'è a ponere in regola a travagliare non fa che nulla. Parami già. Il napoletano, vedi, io intendo. Oh, vorrei il menù, sa che sa zero. Ma sa mia, sa a zero, e su capo e per il nome che guarremmo, questo non è, non è, non li fluidi. Non sa mia, se sa che sta a zero. Quando l'ha fatto tre, se sono dettati la non è c'è che noi finti. E me ne sono appiesato che pazienza fa il dente. Lo intendo sempre io, se no modo non la gusto, già ti intendo bene. Non so come ti lo intendo, sa mia. Oh, se non lo mi ha la caffettera a provare a bidere. No, badate la gente da sovramodulente, evidentemente non si è sapitato che il giovane l'aveva occupato. Lo tappo compreso come noi. Ah, esatto, la propagazione non è perfetta.